and wild, wild women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looks sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Got eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, growing. I looked at the mirror, caught the driver drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. 19.01, 29 aprile, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87 in modulazione di frequenza, dove sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Donna Sonica Pinclo, qui ai microfoni di Radio Onda Rossa per un'oretta di musica assieme, dai. In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution, spreading positivity and light. Every day a woman's day, every day a new fight. But we play and we play, we're doing okay, we're doing okay. Doing ok, DMC, Wild Wild Women, insieme a Einstein, per la nostra sigla di questa stagione numero 4. Ciao Pinclo. Sì, ciao, ciao a tutte. Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati qui a Likewise. Salutiamo tutte e tutti quelli che ci ascoltano da lo streaming www.ondarossa.info, che ci ascoltano in dub da Roma, Perugia, Terni, cercando Onda Rossa sull'elenco delle dub della radio sul dub, e tutti quelli che ci ascoltano invece in FM. Likewise, per chi non lo sapesse, una selezione di nuove uscite di artiste, artist, donne, trans, non binary, prevalentemente produzioni indipendenti con una manciata di storie come ci piace a noi. Potete scriverci a likewise@ondarossa.info, iscrivervi al nostro canale Telegram che si chiama likewise_trx per ricevere i podcast delle trasmissioni che avete perso, per riascoltare le nostre playlist. Sono le 19.03. Possono anche chiamare. Possono anche chiamare allo 0649 1750, possibilmente non quando stiamo parlando, ma quando c'è una canzone, così possiamo rispondervi, e potete chiamare in radio per qualsiasi questione, manifestazioni, cose che succedono in città, qualche comunicazione che volete fare. Lo sapete, la radio è qui per questo, quindi non vi preoccupate di interromperci. 0649 1750. Possiamo ricordare in apertura, così vediamo se qualche nostro ascoltatore fidato fa il radio abbonamento. Nel mentre, possiamo dire che il radio abbonamento è partito qualche settimana fa, lo trovate sul sito della radio, proprio sopra o sotto il banner di Ascolta la diretta, adesso non ricordo bene, è il Jubiroro 2025. Mancano un po' di settimane alla fine, e tra poco meno invece di un mese il compleanno di Radio Onda Rossa. Sapete che abbiamo bisogno di voi per poter sostenere le spese di questa radio, che come potete immaginare aumentano sempre, soprattutto quelle legate alle questioni energetiche, quindi tutte quelle che poi noi paghiamo per l'antenne, le varie antenne che adesso abbiamo in diverse città, DAB in frequenza analogica, e tutto il resto, quelle della radio per sostenere i server, i mixer, insomma tutto lo streaming. Quindi fate questa cosa bella mentre stiamo qui in trasmissione. Adesso ci sono 93 sostenitori, vediamo se almeno uno di voi si commuove durante questa puntata, che è la numero 111 della tipo quarta 1, stagione 1, 1, di come sei, Likewise. Sei. Esatto, noi una ci basta. Cominciamo subito, loro sono Gardens, il pezzo si intitola Flows. We'll be right back. Gardens, il pezzo scelto si intitola Flows. Questo, diciamo, è un pezzo di qualche mese fa, in realtà è uscito per un'etichetta molto bellina che si chiama Silu Records. Loro hanno sede a Vienna, tra l'altro hanno aperto anche da qualche anno. È un'etichetta vecchiotta, nel senso che è uscita intorno al 2005, con una manciata di produzioni, un circa 100 release. Male. Neanche male, sì, insomma, sono 20 anni, però comunque è una piccola etichetta. Adesso hanno anche un negozio di dischi dove vendono appunto le loro produzioni, a Vienna, dove hanno appunto sede. Quindi siccome loro non sono presenti sui social, sono abbastanza antisocial e questa cosa ci piace, spulciando tra le loro cose era uscita fuori in una playlist che stavamo ascoltando questa band che ci eravamo dimenticate di passare quando era uscito questo album, e quindi l'abbiamo recuperato. Sì, perché è uscito a fine anno comunque, esatto, a novembre del 2024. Per loro è l'album di debutto di questo quartetto di dream pop viennese. Devo dire che questa canzone aveva un'atmosfera molto bella, credo che abbiano registrato anche con una certa attenzione alla presa diretta, perché sembra, sì, c'è questo suono comunque di una stanza, cioè questo suono di una stanza, sembra quasi di entrare, sai quando vai ai concerti e c'è il gruppo a spalla che suona in un luogo semideserto, spesso, non sempre, ma spesso sì. C'era quell'effetto lì, questa di loro sul palco che suonano in una stanza un po' vuota. Rientrano un po', questa band rientra un po' nel filone del più ampio, molto ampio del dream pop, un po' ispirazione Beach House, almeno per alcune sonorità, non tanto di questo pezzo ma delle altre canzoni presenti in questo album, sicuramente con una vena un po' più allegra dei Beach House, meno malinconica se non altro. Tutto si regge molto sulla voce di Luca Selina Müller, che appunto è quella che fondamentalmente diciamo regge un po' le micro variazioni dell'album e compone anche per la band, quindi insomma ci faceva piacere citarla. Sì, scrive i testi che parlano appunto di salute mentale, guarda caso un tema che spesso ritroviamo nelle artiste di questi ultimi anni, riti di passaggio dalla giovinezza insomma all'età adulta, le delusioni d'amore che non mancano mai, che sono sempre un evergreen in cui tutte e tutti ci possiamo ritrovare. E questo lavoro è molto carino, molto, molto piacevole da ascoltare, quindi ve lo consigliamo, anche se è uscito qualche mese fa, lo recuperiamo con molta gioia. Secondo pezzo di questa scaletta, loro si chiamano Tropical Fuckstorm, Bloodsport. Tell me what's up. Tropical Fuck Storm, Bloodsport. Pensavo un colpo di cazzo finale, invece no. Preview del loro album in uscita il prossimo 20 giugno, che si intitolerà Fairyland Codex e uscirà per la Fire Records. Questa è una band australiana, credo noi l'abbiamo già passata. È il primo con la Fire Records. Sì, è loro primo con la Fire Records. No, non l'abbiamo passata. Bene, band australiana, diciamo che è composta da vari elementi che arrivano da altre band molto note, che fanno cose diverse, dal metal estremo al folk, quindi insomma varie sonorità che si ritrovano in questo super gruppo, in cui fondamentalmente fanno art punk, art rock, e quindi insomma trovando un altro luogo espressivo diverso rispetto a quello che sono le loro band di riferimento. Anche se mi sembra che è diventata una band comunque abbastanza solida e importante, perché sono al settimo disco. Esatto. Quindi quella cosa che era iniziata come ci prendiamo una pausa dai The Drones, che è la band di Gareth Liddell e Fiona Kitchen, che sono i due che insomma poi hanno fondato questo super gruppo, chiamando altri musicisti che conoscevano, tipo ma noi volevamo fare un tour, che perché non vieni con noi? Esatto. Perché è andata un po' così nel lontano 2016, ma in realtà sono ancora qua. Si vede che li è presa molto molto molto molto bene, tra cui anche a Erika, come si chiama? Erika Dunn, che fa la voce solista, e che in realtà per esempio ha detto una cosa troppo divertente su questo pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare, perché ha detto: è un canto di seduzione per tutte le molecole danzanti rimaste sul pianeta, affinché facciano stretching ed entrino sul ring per qualcosa di più coraggioso di un combattimento a mani nude, un controllo del polso, un inno di resistenza per tutti quelli che hanno ancora un cuore che batte, per tirarsi fuori dalla bolla del malessere sociale e del dominio del cortile, per sentire il ticchettio dell'orologio della realtà davanti alla faccia, prima che ci ritroviamo tutti a mangiare scarti di Levi's come cereali in una ciotola di toner per stampanti e succo di orango. Cioè, non gli vuoi non vuole bene a una esatto, così, no? Esatto, scusa, gli vuoi bene subito. Cioè. Che vi fa anche un po' intuire anche lo spirito di tutta la band, dei testi, insomma, della musica che fanno. Quindi andateli a scoprire, perché comunque 7 album sono tanti. In attesa di questo, che arriverà fra un po', 20 di giugno, c'è tempo, insomma. C'è tempo, volevo anche dire che insomma la settimana, in questi ultimi giorni c'è stato anche un bagno di folla, nel senso che ci siamo incrociate con tante soggettività, dal 25 aprile alla Dyke March, che si è tenuta per la prima volta in Italia qui a Roma, e insomma abbiamo incontrato anche un sacco di voi che ci hanno dato anche dei bei feedback sulla trasmissione, sulla radio in generale ovviamente, e per quanto ci riguarda sulla nostra trasmissione. Vi ringraziamo, vi mandiamo un abbraccio, molto amore. Con tanto amore, veramente. E passiamo al terzo pezzo di questa scaletta. Lei si chiama Salami Rose Joe Lewis, A Sona Sized Pill. Era uno dei tanti pezzi, ce ne sono 17 in questo album di Sì, di salami, sono piccolini, però sono sì, molti sì, sotto i due minuti come questo. Salami Rose Joe Louis è il titolo, è il nome, scusate, di questa artista, polistrumentista, produttrice, insomma. Che non è il suo nome d'arte. Esatto, in realtà si chiama Lindsay Olsen. Esce con la amata etichetta Brain Feeder dei Flying Lotus. E questo album, che è uscito proprio qualche giorno fa, lo scorso 25 aprile, si intitola Lorings. Grande ascolto gettonato di questa settimana, devo dire, no? Molto, molto, molto. È interessante anche la sua storia per diversi motivi. Allora, per i feticisti degli strumenti, possiamo dire che lei praticamente compone tutto con un Roland MV8800. Che si chiama Fan. Ecco. Che si chiama, cioè, ma giustamente lo usa da tantissimi anni, quindi credo che ci sia, è come se fosse una parte di lei. Quello che esce è il settimo disco, quindi potete immaginare appunto una lunga esplorazione. E lei era una scienziata che studiava l'acidità degli oceani. Esatto. Argomento molto interessante, e anche chi non parla tra un bicchiere di vino e un... Non ne parliamo, perché è un argomento che, tra l'altro, per le persone dell'acidità degli oceani più sensibili, certo, sanno effettivamente che è un grandissimo problema di cui gli scienziati hanno cercato di fare un alert da ormai svariatissimi decenni. Inascoltato, quello ovviamente, insomma, la morte dei coralli, tutta una serie di questioni che hanno a che fare con l'aumento della temperatura degli oceani, il suo grado quindi di acidità, cosa comporta, che non è propriamente una cosa né semplice ovviamente da conoscere. Capisco, sì, è vero, non è che tutti ne parliamo tra un tarallo e l'altro, però era un tema molto interessante. Non ho capito se ha lasciato la sua professione e si è dedicata completamente alla musica o fa ancora qualcosa. Guarda, considerato che di musica poche riescono a sopravvivere, infatti anch'io, esatto. D'altra parte devo dire che però Lindsay è una musicista che fa tante cose, insomma, essendo una polistrumentista e una produttrice, riesce anche non solo a pubblicare i suoi album, ma anche a lavorare in collaborazione con moltissime artiste. Che ne so, mi viene in mente di citare Tune Yards, che tra l'altro fa parte della scaletta di oggi, Clairo, insomma, Flying Lotus stessi, Cinematic Orchestra, quindi insomma sicuramente fa tante cose, quindi chissà, forse gliela fa pure a pagare le bollette. Ce la curiamo, dai. Sì, insomma, il suo approccio alla musica, quindi anche alla costruzione degli album, è un po', diciamo, da concettuale, no? Molto, insomma, concettuale. Queste odissee science fiction che inventa e con le quali che percorrono gli album pubblicati in questi anni, che hanno, come hai detto tu, insomma, molte tematiche, come diciamo, contenuto, molte delle tematiche che ci preoccupano, come il cambiamento climatico, la depressione, l'isolamento e il condizionamento sociale, insomma, tantissime importanti come posso dire, tematiche accompagnate da questa sua sperimentazione. Io devo dire che vi vorrei consigliare anche un bellissimo live che potete vedere su un canale video, su molti canali video, che è uscito per la KEXP, una delle radio che amiamo e che spesso citiamo qui, che è di gennaio scorso, perché proprio è, diciamo, lei sta con la sua fan davanti e si vede proprio il suo approccio con la musica, cioè quanto si diverte a suonare, proprio visivamente, come posso dire, coinvolgente anche proprio il suo approccio fisico allo strumento e al suonare quello strumento. Che sempre non è facile, quando parliamo di musica elettronica, trovare questo tipo di calore, però lei, che è una compositrice di elettronica, mi viene da dire quasi old school. Sì, perché poi dentro c'è tanta, esatto, roba, cioè spazia dal jazz alla classica, cioè nel senso che dentro i suoi pezzi non è elettronica pura, ma veramente c'è di tutto. Ibrida, sì. E questo divertimento si vede proprio, cioè è coinvolgente, quindi insomma io vi consiglio di cercarlo. Vi consigliamo di cercare il live, di ascoltare questo disco che si chiama Lorings. Sono le 19:24, se vi siete messi in contatto adesso, questo è Radio Onda Rossa, sono gli 87.9, modulazione di frequenza, siamo live, è il 29 aprile, è stato ascoltando Likewise, così per darvi qualche coordinata. Siamo forse anche in orario con la scaletta, ma non è vero, questa è una cosa finta. Ciao, finta di sì. Quarto pezzo, loro sono Qnatic, Disembodied Turn-In. E queste erano le Qunatics. Disembodied Ternion era il titolo di questo pezzo, ma aprite la bottiglia, mettete sulla tisana, perché vi dobbiamo raccontare un po' di cose di questo album che si intitola Wheels of Omon, uscito lo scorso 11 aprile per la Glitter Beat Records. Perché allora, intanto, chi sono le Qunatics, se non vi era capitato di ascoltarle? Sono un trio. Un trio formato da Fumika Kikuchi alle tastiere e alle voci, Yuko Araki alla batteria e alle voci, perché cantano, come avete potuto sentire, tutte e tre, sì. E Shoko Oyoshida al basso e alle fin voci. Qui. E fin qua è facile. Tutto a posto. 2016, insomma, hanno pubblicato un EP, poi hanno pubblicato, cioè sono messo un po', poi un 7 pollici, e poi nel 2021 è uscito questo album che si chiama Gate of Cluna, che insomma ha riscosso un certo successo. Ma ha riscosso un certo successo non solo per, diciamo, il tipo di sonorità, per gli strumenti che utilizzano, di cui appunto vi parliamo, ma anche perché c'è sia Gate of Cluna che quello che vi abbiamo appena fatto, diciamo, estratto un pezzo e vi abbiamo fatto ascoltare, sono dei concept album che non qualsiasi, esatto, che no, si basano proprio su tutto un fantasy che si sono inventate loro, praticamente. Esatto, cioè un pianeta, esatto, Curandia, esatto, praticamente, che ha una luna che si chiama Cluna. Esatto. È un sole che si chiama Omon. Appunto, queste sono le ruote di Omon, la cui orbita è di 45 ore. Esatto. E ognuno degli 8 brani che compongono questo album è un momento specifico di questa orbita, descritto appunto nei loro pezzi. Ma cioè, praticamente, a noi piace la fantasia. A noi ci piace moltissimo. Potere. E loro si sono inventati un mondo. Tra l'altro, raccontano che l'ispirazione per questo secondo album, che è il proseguimento del primo, in cui loro approfondiscono la storia di questo pianeta. A questo punto, quindi, voglio il terzo. Esatto, la terza saga. Raccontano che, siccome hanno fatto erano in Svizzera, in un villaggio, un piccolo villaggio nelle Alpi di Bruson, dove stavano facendo una residenza artistica e dove hanno in parte scritto i pezzi che compongono questo album, dice sostanzialmente: abbiamo fatto passeggiate su queste Alpi meravigliose, abbiamo fatto anche dei servizi fotografici, eccetera eccetera, e tutta questa vicinanza con la natura, anche abbastanza intensa e, diciamo, come si dice, che toglie il fiato, no? per la bellezza e anche per la parte selvaggia della natura, no? Con cui entri in contatto, che diciamo queste visioni hanno ispirato alcune delle fantasie che poi sono andate a comporre la loro storia, la loro invenzione di questo pianeta meraviglioso, con tutte queste, appunto, questi racconti che stanno dentro l'album. Dentro l'album ci sono anche tutta una serie di strumenti tradizionali, perché appunto loro suonano strumenti normali, tra virgolette, che a livello sonoro è quella la particolarità. Mm-hmm. Quando se vi viene voglia di ascoltarlo, è molto straniante, perché ci sono gli strumenti tradizionali, ve l'abbiamo detto, loro sono tastiera, batteria e basso, quindi degli strumenti in qualche modo che appartengono anche alle sonorità del rock che conosciamo, a cui siamo abituate, però dentro poi ci sono invece tutti gli strumenti tradizionali, percussioni per lo più e strumenti a fiato come ciappa, sasara, che è uno strumento di percussione, i liuteki, che è un flauto traverso, il karagabue, che è un flauto traverso di bambù, lo guidaiko, il ko Kiriko e il Badaiko, cioè insomma molti degli strumenti tradizionali giapponesi che dentro questo racconto fantastico in qualche modo creano qualcosa di molto interessante anche a livello sonoro, perché probabilmente se usciamo dal nostro eurocentrismo anche nel rock succedono delle cose nuove, e succedono anche grazie a questi gruppi qui che mischiano culture, tradizioni, mischiano strumenti, e quindi vengono fuori anche delle nuove sonorità con strumenti che invece conosciamo abbastanza. Sì, diciamo, l'idea di utilizzare questi strumenti viene un po', diciamo, a supportare, no? A dare consistenza alla storia, alla narrativa di questo album, proprio perché, come raccontano loro stesse, questi strumenti venivano utilizzati per accompagnare antichi canti popolari giapponesi, e quindi quindi in questo modo, diciamo, riuscivano a dare al loro racconto anche una sorta di antichità, una sorta di, no, di, insomma, questo mistero, questa atmosfera, insomma, popolare, come se fosse un racconto antico che veniva scoperto. Una partecipazione in uno dei pezzi inclusi in questo album è della vocalist Rekpo, che è appartenente al popolo indigeno Ainu del nord del Giappone, storicamente marginato e perseguitato, che loro hanno conosciuto durante un tour e quindi poi hanno deciso di inserire, con cui hanno deciso di collaborare per dare ancora più senso, diciamo, divino, spirituale, antico a questo loro progetto. Quindi, insomma, veramente una cosa molto interessante. Molto interessante, un bel viaggio in qualche modo, quindi vi consigliamo di seguirle, di ascoltarle. E passiamo al numero 5 della scaletta di questa sera, Jenny Ival, The Artist Is Absent. Jenny Ival, The Artist Is Absent, nella 89 Seconds Rewrite, che è una versione, diciamo, rivista di questo singolo che preannuncia l'album Iris Silver Mist, che uscirà il prossimo 2 maggio per la 4AD. Questa artista, insomma, che è passata già dalle nostre parti in questa, diciamo, in questo pezzo in particolare, insomma, abbiamo già parlato di lei. In questo pezzo in particolare molto interessante, diciamo, la sua idea, no? L'artista è assente, è il titolo del pezzo, in cui fondamentalmente cerca di riflettere su quanto le persone che fruiscono dell'opera artistica in qualsiasi forma abbiano veramente un'idea, si facciano veramente un'idea, o comunque entrino in contatto veramente con chi quell'arte la produce, la crea e la mette in circolazione. Quindi dice un po' nel testo di questo pezzo: io sono qui, ma mi vedi davvero? Mi vedi in quello che sto facendo? Quindi un bel concetto e anche una bella riflessione. Questo, in particolare questo singolo, è uscito accompagnato da un bel video girato dalla regista Jenny Berger-Meir, che appunto in qualche modo vi spiega, vi racconta anche meglio quello di cui stiamo parlando. Ok, perché a me ha ricordato subito in realtà come contraltare The Artist is Present, che è stata la storica, diciamo, performance al MoMA di Marina Abramovic quando c'è stata la sua mostra gigantesca, insomma, che ripercorreva tutta la sua carriera, dove per l'appunto lei era seduta tutte le ore di apertura del museo su una sedia e proprio segnalando la sua presenza, interagendo ogni volta con il pubblico del MoMA, o comunque chi andava a vedere la mostra e chi voleva stare di fronte a lei e guardarla in faccia. Quindi quella fu una cosa molto interessante, molto forte. Credo che il concetto sia però, cioè il ragionamento di fondo sia un po' lo stesso in qualche modo, e forse anche il titolo gioca su questa cosa, gioco, sì, un è molto probabile di questa cosa qua. Noi l'avevamo sentita con Classic Objects, che era uscito poco dopo la, cioè due anni dopo la fine della pandemia, cioè del periodo della pandemia, che ricordava, insomma, era un disco abbastanza casalingo, che parlava, insomma, di quel periodo. Anche questo in qualche modo c'ha ancora questi strascichi, perché il disco si chiamerà Iris Silver Mist, che in realtà poi è una fragranza di un profumo di cui io praticamente non so né chi è Maurice Rosel, è una fragranza di un profumo creato per Serge Lutens, e dice che questa passione in realtà le è venuta in quel periodo lì, comunque nel periodo in cui c'è stato il lockdown diversi anni fa, quindi ci sono ancora cose che sta elaborando di quel periodo. È il sesto pezzo di oggi, lei si chiama Tune Yards Limelight. It's not working. Juniors, Limelight, restiamo nella scuderia 4AD per una grande artista con una lunga carriera ormai alle spalle, Meryl Gabus, diciamo mente e ideatrice cuore. E cuore e percussioni e voce di, e composizioni di questo progetto che poi appunto adesso è più stabilmente un duo che si chiama Juniors, diciamo sventolando orgogliosamente una bandiera antifascista, liberatoria e Freak. Nel prossimo album che uscirà, come dicevamo, per la 4AD il 16 maggio, se non vado errata. Better Dreaming è il titolo che appunto l'accompagnerà questa manciata di canzoni. E credo che siamo fortunate tutti ad aver ascoltato questa canzone, perché forse non ci sarebbe stata proprio nell'album, perché c'è solamente, almeno detta di lei, perché al figlio, che penso sia quello che si sentiva in fine registrazione, e piaceva tantissimo, e quindi hanno detto va bene, dai, mettiamo anche questo, che è molto divertente, è molto come divertente. Idea di scelta. Prossima artista di oggi, lei si chiama After Hours, Different Now. Now Questa era la voce di Kyla Janowitz in arte After Hours, Different Now, il pezzo che abbiamo scelto dall'album che uscirà il prossimo 6 giugno per la Acroface Records e si intitolerà Imaginary Friend. Allora, un artista con una vita abbastanza complicata, almeno per la prima parte della sua vita, in cui diciamo si è occupata di altre cose rispetto alla musica, nonostante sia cresciuta in un ambiente estremamente musicale, molto musicale, la mamma una cantante lirica, il fratello un chitarrista, quindi insomma in realtà il suo avvicinamento con la musica è ritardato, ma non perché non l'avesse incontrata prima, diciamo ha un approccio molto, almeno però ha avuto dei problemi di salute, sì, quando esatto, era ventenne, quindi insomma questo ha sparigliato un po' le carte, sì. Esatto, quindi insomma ha cominciato a scrivere, diceva, racconta intorno al 2021 i pezzi che poi piano piano hanno composto quello che sarà l'album Imaginary Friend, che come abbiamo detto uscirà fra un pochetto, quindi ma ci sarà tempo di ascoltare magari altri singoli e dare un però c'è stato un disco autoprodotto che sì, è uscito nel 2023, sì. Quindi qualcosa già la potete ascoltare. Vabbè. Però diciamo che quello, vabbè, che è certo, proprio il lavoro, insomma, come posso dire, un po' importante, un po' questo, diciamo, sì, costruito, sì, e prodotto, ben prodotto, forse sarà questo, no? Probabilmente sì, però qualcosa già si può ascoltare per farsi un'idea. Poi magari crescendo chiaramente questo disco potrebbe essere anche molto diverso dall'omonimo che è uscito nel 2023. Sono comunque passi di 2 anni, quando poi entri in questo ambiente decidi seriamente magari di fare la musica, cominci a trovare collaborazioni, produttori, persone che ti aiutano, e quindi potrebbe anche cambiare il tuo suono, quello certo. Quindi noi insomma vi invitiamo ad esplorare le sue composizioni. È uscito un bell'album, devo dire mi aspettavo di più, però penso anche che forse devo ascoltarlo ancora altre 20-30 volte, perché ci sono delle cose che non mi convincono, ma forse non mi convincono perché ho bisogno di elaborarle. Poi mi direte anche voi, loro sono Salt, I Love to Sing. Love to Sing, pezzo tratto dall'ultimo album di Salt, l'album uscito a sorpresa, si intitola Ten ed è il loro, credo, undicesimo album, no? In studio di questo, diciamo, collettivo britannico R&B, insomma, e tutto quello Soul. che ruota intorno a questo grande genere, uscito il 19 aprile scorso per l'etichetta, tra l'altro, della band Forever Living Originals. E insomma, si pensava, c'erano un po' sorprese con questo albumino, diciamo, no? Nel sì. senso, è vero, diciamo che quando li abbiamo messi a Likewise la prima volta di loro si sapeva pochissimo, a parte che dentro c'era il Flo, produttore, ingegnere del suono, dove, che comunque suona il pianoforte, la chitarra acustica, la chitarra elettrica, il basso, non so se qualsiasi cosa penso che trovi in giro. Che ci fosse Clio Soul, no? La sua voce, le composizioni, comunque quelle c'erano. Esatto, che ci fosse Clio Soul. In realtà adesso è diventato un po' più strutturato, un po' più ufficiale, stanno partendo anche per un tour. Quando li avevamo incrociati noi non si sapeva niente, non c'erano notizie sui media, non volevano farsi, insomma, riconoscere. Credo che a furia di sfornare album hanno fatto venire anche la voglia di vederli dal vivo, forse è venuta anche in loro la voglia di andare in giro. Non lo sapremo, però fatto sta che 12 album, 2 EP, diciamo che dai. A un certo punto ti viene pure voglia di dire vabbè, ok, sto gioco ha funzionato, perché comunque il fatto anche di non essere identificabili come, diciamo, elementi singoli comunque non ha tolto nulla, e questa è sempre una bella dimostrazione nella musica come in qualsiasi altra arte, non ha tolto nulla al successo, insomma, che effettivamente poi si è che si è raccolto intorno alla loro produzione. No, se vogliamo, hanno dimostrato una volta di più che spesso non è una questione di quanta pubblicità hai, di quante cose, ma di quello proprio che fai, perché poi quando c'è una bella, quando c'è bella musica in giro, poi comunque si attiva un passaparola e la gente scopre, ti viene a conoscere, ti viene ad ascoltare, alla fine viene fuori questo. E loro penso quindi andranno in giro, quindi ho notato questo cambiamento molto grande. Anche adesso sono più chiari i nomi, che c'è Kid Sister, Kalim Clark, c'è Chronix, le voci che sentiamo sono di queste artiste, e poi c'è Jack Pignata alle strumentazioni, e come abbiamo detto c'è Inflo che si occupa anche di tutta la produzione, ingegneria del suono, ma suona anche. C'è anche una polemica di cui non vogliamo non parlarvi, la collaborazione di Little Sims, che è un'amica di Likewise, che ascoltiamo sempre con grande piacere, che ha proprio il mese scorso intentato una causa contro il, diciamo, Inflo di Incover, che appunto Inflo, il produttore che nominavamo prima, perché in pratica la collaborazione di Little Sims, sia per la sua produzione rispetto ai suoi lavori, i lavori di Little Sims intendo, e sia per una collaborazione che lei ha fatto con, diciamo, una live con la band, in sostanza pare che non sia stato pagato, e quindi ci sono delle questioni poco chiare da un punto di vista finanziario. Noi ci dispiace. Cose che non ci piace sentire, non ci piace sapere. Speriamo che si risolvano, insomma, per il meglio, che siano solo fraintendimenti. E chi deve avere i soldi li abbia. Esatto. Soprattutto. Dall'altra parte del vetro sono arrivate note cose città. Sono le 19:57. Quella che ascoltate è Radio Onda Rossa, oggi è 29 aprile, sta per chiudersi la scaletta della puntata 111 di Likewise, e chiudiamo con un artista portoghese, si chiama Amanda Muir e il pezzo si chiama Mutante. No verá quien haya dentro. More, il pezzo scelto per voi dall'album Neu Om, uscito per la Castagna, si chiama Mutante, è accompagnato anche da un bellissimo video che non so se vi è capitato di vedere, insomma se non l'avete visto ancora andate a guardarlo, che racconta anche molto bene quello che è, diciamo, la sostanza di questo pezzo. Comunque prima avevo detto una stupidaggine, lei non è portoghese per niente, ma è della Cantabria, della regione autonoma della Cantabria, quindi diciamo è stato spagnolo. Questo è il suo album di esordio, che appunto esce per questa etichetta molto interessante catalana, la Castagna. Andate a controllare le produzioni, noi siamo straordinariamente in orario, insomma. Sì, 20.03, dai, mi sembra tanta roba, no? Cioè, ci accontentiamo, esatto, mai qui? No, infatti, non ci accontentiamo mai. Questo disco è molto bello, come avete potuto ascoltare, fonde, insomma, stili e musiche tradizionali, classiche, strumentazione classica con la scrittura di canzoni. È una produzione molto particolare che ci piaceva segnalarvi. E che magari riascolterete, insomma, se ci andrà, cioè se approfondiremo. Io ho ascoltato poco, devo dire, quindi sono stata cattivissima ascoltando questa produzione, ma l'ascolterò di nuovo e magari altri pezzi ci prenderanno e altri, diciamo, contenuti, informazioni, racconti verranno fuori. Intanto la sigla Doing OK, che ci accompagna verso la chiusura di questa 111esima puntata. Vi dobbiamo ricordare di una cosa importantissima: il dito dei Pinclo dall'altra parte del microfono me lo ricorda. 48 anni di Radio Onda Rossa, 3 giorni di festa, musica e dibattito. Come avevamo un po' accennato, si parte venerdì 23 maggio qui sotto dalle 18. Ci sarà la diretta della radio in strada come consuetudine. Il 17 il brindisi rigorosamente a mezzanotte, perché non siamo scaramantici, ma non si sa mai. Via dei Volsci, io sì pure. Via dei Volsci 50, quindi non si brinda mai prima di festeggiare. Siccome il compleanno della radio ufficiale è il 24 maggio, che verrà festeggiato in pompa magna, sempre dalle 19 al centro sociale Ex-SNIA a via Prenestina 173. Ci sarà una pericena, ci saranno i Queen of Saba, Malpela, Elicottino, Annarella, Alice e Erta. Non ci vedo. Elsie e Yerta, che è una bellissima line up. Non vediamo l'ora di ballare e cantare assieme a loro e assieme a voi. Domenica 25 maggio avremo invece riflessione e anche un momento di incontro. C'è una proiezione alle 17, confronto sulla Palestina e ritorno alla memoria con Antoine Raffaul e Udap. A seguire la proiezione del film Envas di Dima Abu Ghosh, e apericena e un live della band Tsunami. Cioè c'è di tutto, quindi dovete solo venire, portare i vostri culi da noi e poi ci pensiamo e noi e sottoscrivere per la radio, esatto. Bene, sono le 20.05, vi abbiamo detto tutto, vi lasciamo in buonissima compagnia di Note Cose Città. Lo so che non fare quella faccia c'è da ridire, ma dobbiamo tenere buoni. Poi ci sarà Semilla, Musica del Mondo e poi More Fire. Restate all'ascolto di Radio Onda Rossa e sostenetela. Ciao! Greetings from the bar. Te non saluti. Ciao, scusate. And wild women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looked sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Their eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs, calling karma a bitch 'cause she made you beg. I'm just traveling.